24 mattino di Alessandro Milan. Tu sei un mascalzone. Oh cheerio, cheerio, baby. Why you need a fee? If you don't believe at all, what have you left me to do? It's so long I've been waiting for you to come right in. Now that we are together, let's make my joy run over. Su Roma io penso che si debba fare un ragionamento con i romani, perché io da romano posso esibire le fotografie degli ingombranti e dei rifiuti che sono sotto casa mia e che non vengono tolti da un mese. Oltre, diciamo, a simpatici roditori che frequentano i monumenti del nostro capitale. Perché ieri ha girato molto capitale. Il topino che girava, ma io ne vedo continuamente topini. Quindi topino, anche fatto di cioè questo qui è anche il fatto di fotografarli occupa due sbarre. Perché cioè, non passa dalle sbarre sto topo. Ma non ci sono solamente i topi, ci sono anche dei gabbiani pazzeschi che sono alti come Brunetta, insomma, fanno paura. Io quando incontro un gabbiano vorrei sparare. Questo non si può. Vittorio Feltri, non mi toccare i gabbiani che io li adoro. Quando sei a Roma, certo li adoro come colui che arriva a Roma dall'esterno, ecco, quando sono a Roma le rare volte ormai che mi capita, mi sveglio magari alle 5, un orario a caso, devo andare negli studi di Roma, di Radio 24, e vedo e sento questi gabbiani già alle 5 svegli, magari in un cielo terso, bello, bellissimo, stupendo, i gabbiani alti come Brunetta. I topi di Roma sono molto grossi, io lo so perché sono stato a Roma 11 anni o 10 certo, anni, certo. Non ricordo più. Mi ricordo che nel cortile del nostro seminario, allora ogni tanto attraversava il campo di calcio qualche topo enorme, talmente grosso che una volta uno, un seminarista, ha fatto gol con un topo. Cioè... Ha fatto gol con un topo, non si è mai capito cosa vuol dire, caro direttore di Radio Padania e di Radio Maria, scusate, mi sei impossessata di me, Aurora Lussana. Che vuol dire ha fatto gol con un topo, proprio con un esterno destro all'incrocio? Non lo so. Va bene, questa è l'ultima puntata della settimana, signori, perché domani non siamo in onda, è il 2 giugno alle 6:31 minuti, questa è 24 mattino. Siamo qui e io tra l'altro oggi mi sono circondato di due interisti che insieme a me, milanista, fanno un po', servono qui per fare un po' degli auguri alla Juve per questa importante sfida, il triplete conquistato. Importante, fondamentale. Ci siamo anche circondati di Filippo Aureggi in regia. Che ti è successo, Filippo? Come mai? Che è capitato? Non lo so. Oggi sei stato così, sei stato nominato e sei stato prescelto, sei stato estratto per la sveglia molto presta. Insieme a te Lorenzo Nespoli lì in redazione. Alle 6:31 minuti voglio salutare intanto Silvietta Brasca. Silvia, ciao, buongiorno. Buongiorno. Noi a Milano buongiorno. Niente toponi, magari sulla Martesana, magari sui Navigli, ma a Roma pare che sia un problema non indifferente, questo dei toponi, i topoloni. Signori, insieme a Silvia Brasca c'è il direttore di oggi, Umberto Brindani. Direttore, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a Silvio, buongiorno a tutti, agli Juventini. Agli Juventini soprattutto. Insomma. Sì. Va bene. Dai, dopo faremo un bel pronostico, molto sereno, molto tranquillo, molto pacato, denso di auguri. E a lei andiamo. Allora, dobbiamo aprire il Parlamento perché... Qui c'è da raccontare, vai Filippo, c'è da raccontare. Ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma forza, c'è da raccontare. A correre dal Parlamento abbiamo l'approccio ai giornali di questi giorni. Allora, signori, io non lo so, aiutatemi voi, perché, caro direttore, qui sono io. Ho detto una settimana fa, io se fossi direttore non parlerei più una sola riga, farei scrivere sulla legge elettorale. Mi hanno ascoltato molto i direttori, devo dire, gli ultimi giorni, e praticamente l'hanno fatta apposta per rovinarmi le giornate al mattino appena mi sveglio. E niente, ogni giorno ha la sua pena e le sue 7-8 pagine sulla legge elettorale, su quelle che sono le strategie, i litigi. L'ultimo è Renzi, che ha preso veramente a schiaffoni Alfano, dicendo: ha fatto il ministro di tutto, e se non raggiungi neanche il 5% dopo aver fatto il ministro di tutto, che vuoi da me? Siamo a questo, caro direttore. E quindi che succederà mo? Ma ti ho sentito questa tua campagna inutile campagna, che devo dire condivido storicamente in pieno, sì. sull'eccesso di politica non se ne può più. Non ci ho capito niente del Tedeschellum o come diavolo vogliamo chiamarlo. Non esiste questa legge elettorale al momento sì, non esiste. Sì, sì. Si è capito solo questa storia del 5% sulla quale Renzi non intende arretrare. Dice addirittura che Berlusconi gli aveva chiesto il 6% al telefono, ha fatto credo questa rivelazione. Al poi telefono. Ha detto che per lui andrebbe bene anche l'otto. Insomma, vogliono far fuori Alfano a tutti i costi. E quindi questa cosa è l'unica cosa certa e anche un po' divertente di queste giornate. E anche un po' la Meloni, infatti la Meloni che è lì, attorno qua. La Meloni, Ala, Api, i Fittiani, che insomma adesso lavoreranno per mettersi insieme e fare un partitone di centro per prendere il 5,1%. Che bello, eh? È bellissimo. Cioè, che bello, che bei, proprio come uno affronta la giornata. Potete affrontare il ponte. Io vi vedo nelle vostre macchine ad affrontare il ponte, cara. Dimmi, secondo te è il 5 o il 6% la soglia verso la quale dobbiamo andare? Ma caro, devo vedere adesso, perché insomma, e questi dibattiti continueranno in queste lunghe code sulle autostrade. Sono argomenti che possono animare le vostre famiglie. Giornate. Le famiglie non parleranno d'altro. Le famiglie non parleranno d'altro, è vero. Cara Silvietta, tu non parli d'altro, per esempio, quando no, sono... Ah, mio marito è abbastanza appassionato, vedi? Al tema, vedi? Giuro. Dai. Allora, dal marito di Silvia Brasca una spiegazione tecnica anche su quello che sta succedendo. Forza, cosa ti riferisce? Dice un po' in queste serate appassionanti. Non si perde un talk, quello è vero. Possiamo chiedere ai tedeschi, però, che sono in Italia, c'è il ponte anche per loro, possiamo chiedere come funziona, ma non è neanche alla tedesca. Davvero si fa abbastanza fatica, però che il problema dell'Italia sia Alfano Se il problema di una legge elettorale è Alfano, forse possiamo anche, no? Non so, possiamo superarlo. Emigrare, però c'è un'altra data, no? Che è quella del 1° luglio, la federazione dell'altra sinistra. Quella è un'altra cosa interessante. Qualcosa si muove, no? Cioè, che succede? Qualcosa fa muovere. Il 1° luglio, che succede? Mi sono perso. Il 1° luglio, Pisapia, Roma. Pisapia, Roma. Brindani, abbiamo. Ferma le rotative. L'altra sinistra. Ferma le rotative. Le rotative. Pisapia fa il fatto. A luglio insieme via libera di MDP. Attenzione. Bersiani dirà: saremo in tanti. No, ma dopo vedi. Dopo. Mi scrivono, mi accusano, mi dicono: ecco il solito qualunquista, eccetera. E io rispondo sempre così: sono loro i qualunquisti, non siamo noi, non sono io il qualunquista, sono loro, perché si va a votare, ma non si è capito il perché. Cioè, non si è capito perché bisogna andare con questa fretta dopo aver nicchiato per una legislatura. Adesso bisogna andare a votare di colpo, 3 mesi prima della scadenza della legislatura naturale. Ecco, questo è il mistero. Per fare che cosa dell'Italia? E questo ve lo diremo. Con calma. Brindani, con calma. Non è che possiamo dirvi tutto subito. Sono colpito che in casa Brasca ferve il dibattito politico. Sì, esatto. Ferve il dibattito. Non ne posso più. Quando uno torna a casa vorrebbe vedere qualcosa. No, ritrovo la stessa cosa che dalla mattina appunto alle 6:30, esatto, fino alle 8:30 davanti. Io vorrei, esatto, vorrei un attimo capire e scandagliare perché tuo marito vuole vedere tutti i talk show e non se ne perde uno. Cioè questa veramente, ecco, è una questione che insomma interessa forse solo perché, me. Perché ultimamente si è appassionato, l'aveva molto annoiato l'antiberlusconismo, sì, a un certo, sì, punto non ne poteva, sì, più. E adesso si è appassionato. Ma tutto bene? Sta attraversando una fase difficile? No, bene. Però tutto, io continuo a uscire sempre fuori la sera, organizzo cose. È fantastico. Vedi che qualcuno in famiglia che. Non sto scherzando. Che è qualcuno che è serena, che invece fa delle cose un po' più piacevoli, insomma, uscire, vedere le persone. Adesso al di là di tutto, Brindani, che campagna elettorale sarà? Tra l'altro anche i direttori regionali si devono un po' adesso sistemare e capire, perché sarà una campagna elettorale sotto l'ombrellone, cioè c'è il rischio che sotto l'ombrellone non potrai parlare del gossip, delle classiche notizie estive, le cose, no, dovrai occuparti di reddito di cittadinanza, capisci, al 12 di agosto. Non potrò fare gli scoop su Maria Elena Boschi in bikini, come ogni anno, perché ti accuseranno di essere anti PD. Esatto, su Renzi che va in vacanza stampinato dai giornalisti, come tutti gli anni. Sarà un'estate difficilissima. D'altra parte si sta rivelando vero quello che dicevamo all'indomani del referendum del 4 dicembre, cioè che dal 5 dicembre in poi avremmo avuto la solita melassa politica per mesi e mesi, e si sarebbe parlato di alleanze, di scontri, di coalizioni, di politica politicata, e non delle cose vere che servono all'Italia. Si sta verificando esattamente questo, e andremo avanti ancora per mesi. Però non siamo qualunquisti noi. No, infatti no, io lo dico perché non vedo una visione, ecco. Se uno vedesse una visione di dove si vuole portare l'Italia, allora uno potrebbe anche dire, beh, è giusto. Ecco, la visione tuo marito la trova, cara Silvia, perché avrà visto tutti questi talk show, troverà una visione di chi vuole fare che cosa. Io vedo solo grandi persone che scalpitano per tornare al potere, che è legittimo, è una fase legittima della politica, ma non può finire tutto lì. E invece qui sembra può andarci per la prima volta, perché qua non è che sì, c'è un attore, ma gli attori sulla scena che spingono per l'elezione non c'è mica uno, No, è ovvio. E c'è il ritorno di un vecchio capocomico, ma lo dico proprio come nel suo mestiere, mm-hmm, che è Berlusconi, che ha sorpresa tutto nell'ultimo. Io pensavo a Grillo. Ho detto capocomico, pensa e parla di Grillo. Invece proprio Berlusconi, stai parlando di Berlusconi. Sì. No, ma proprio perché sono le parti in commedia queste, no? E allora abbiamo almeno vedere il mestiere di uno, ma anche dell'altro. Ma è una fase interessante, cioè guardarla può essere stucchevole, ma è davvero interessante. Comunque. È davvero interessante. Però scusate, c'è una cosa che sta succedendo, cioè la sensazione è che questo prevedibile o presunto accordo tra Renzi e Berlusconi, di cui tanto si parla in questi giorni, in realtà porti acqua solo al mulino del comico, non del capocomico, o dell'ex comico, cioè di Grillo, no? Quindi la sensazione che alla fine, che si voti a ottobre, che si voti in primavera, ci si trovi con un Movimento 5 Stelle, primo partito, e con il Presidente della Repubblica che deve dare l'incarico per formare il governo a Luigi Di Maio, questa è una cosa che diventa sempre più probabile. Eh sì. Tra l'altro, Di Maio, ieri c'è stato anche un convegno del Movimento 5 Stelle con alcuni magistrati. Di Matteo, che è magistrato a Palermo, ha aperto la possibilità di entrare in politica, dicendo i PM sono utili in politica. Davigo invece imperterrito, ha detto: io di politici mi occupo quando rubano, non per andare io in politica. Comunque, Di Maio, sentiamo un po'. I futuri ministri? No, i ministri li sceglie il candidato presidente del Consiglio, quindi i nostri iscritti partecipando individueranno il candidato presidente del Consiglio dei Ministri. Il candidato presidente del Consiglio, nella maniera più partecipata possibile, più aperta possibile, sceglierà i ministri del futuro governo. E questo verrà accelerato tutto col sistema russo. Brindani, pensa come abbiamo... Russo con l'accento sulla O, vero? Russo, che era facile quando al liceo ti dicevano Rousseau, no? Che tu non ricordi così, si scrive Rousseau, russo. Questo è il sistema russo, che è il sistema con cui hanno votato sono preparatissime, dicono, al mattino alle 7, votate sul sistema elettorale tedesco proporzionale, che nessuno ha visto in Italia, e a sera il popolo del Movimento 5 Stelle ha votato per il sistema elettorale tedesco che nessuno ha mai visto. 27.000 hanno votato così, 3.000 hanno votato di qua, 2.200 hanno detto sì, no, boh, forse. È tutto certificato, e c'è certificato, insomma, tutto dichiarato e via. Vabbè, Silvia, niente, io la cosa che mi ha sempre colpito è questo del partito degli animali. Ecco, tu, per esempio, tu, Brindani, fai un giornale popolare, no? Oggi, ecco. Questa storia del partito animalista può, secondo me, io mi sveglio, è l'unica novità che è interessante. Cosa ti devo dire, Alessandro? No, colpisce un po' l'uomo medio, l'uomo, no, che non è un insulto, insomma. Ma dal punto di vista della comunicazione, tutti sanno che nei giornali popolari, ma non solo nei giornali, anche nei telegiornali popolari, uno degli ingredienti del menù deve essere l'animale, soprattutto il cane, storie di cani. Gatti, eccetera. È una cosa che piace moltissimo, e ci sono alcuni giornalisti, alcuni direttori che ci hanno costruito intere fortune su questa cosa. È un lievito, poi, si sa, no? Umberto, cioè, è un lievito, poi, degli ascolti. Appunto. Il TG5, a un certo momento, quando sono in crisi... Un bel servizio sugli animali. Il TG5, storicamente, con mio amico Clemente Mimun, ha sempre un servizio sui cani. Serve, alza gli ascolti. Così come... Poi, se da questo... si possa trasferire questo trucco comunicativo in politica per ottenere voti, è tutto da vedere. Per esempio, Brunetta non farà certo manifesti dei gabbiani dopo la dichiarazione di Vittorio Feltri, che è stata un pochino così. Però che dobbiamo fare? Silvia, ecco, tuo marito che vede i talk show, del partito degli animali, che dice? Meglio che stia zitto. Eccola. Ecco, animalisti, tutto questo è un settore. Fare la famiglia Brasca cioè l'animalismo spinto, ecco, ci vedo un po' lontani. Non riesco proprio a trovare una cosa che mi interessa. Ci è arrivato anche tardi. Adesso non so, sarebbe bello pesare l'efficacia. Ci è arrivato tardi. Però secondo me non ci è arrivato a caso, mentre la Brambilla è vero che io conosco dai tempi di Mediaset, anzi dell'allora Fininvest, animalista, è vero, lo è sempre stata, non è una cosa dell'ultima ora. No. Ecco, Berlusconi, il video di Berlusconi, il promo di Berlusconi, la trasmissione, secondo me è un pezzo della storia di Berlusconi. Per chi lo studierà, importante. Tenerone, fantastico. Dai, andiamo altro. Contribuirà a far arrivare Forza Italia quel 20% che Berlusconi dice di poter raggiungere. Sì. Perché forse le cose politiche, la cosa politica forse più interessante in questo momento è sicuramente il ritorno sulla scena, sul palcoscenico di Silvio Berlusconi. Comunque andiamo un attimo al traffico, poi parliamo magari di altre cose. State con noi. Ah, c'è una grande notizia in tutto questo. questo. A un certo punto oggi sono arrivato a pagina 17 di Libero e ho detto, ecco, tra tanti discorsi sulla legge elettorale, ecco qui una notizia sparata a sei colonne, perché Libero esce a sei colonne, comunque a tutta pagina. Ve la dico tra poco. Ciao Milan, intanto che aspettiamo che danno un rigore alla Juve. Siamo già al 97esimo. Niente, manda il traffico, dai, tanto c'è ancora un po' da giocare, dai. Traffico, traffico. Aspetta! Rigore, traffico! Mattino. Questa storia dei gradi non ce la faccio più, che palle! E dopo gli animalisti, il partito dei montagnini. Hai ragione Milan, andare a votare perché cosa? Che non hanno programmi, non hanno niente. Almeno una volta ti raccontavano due balle, dicevano meno tasse, più lavoro, più giustizia, più sicurezza. Adesso non so manco più buoni a inventarsele le balle. Chiedo scusa, allora stasera io, con tutto quest'odio che c'è contro di me, io vengo a parlare, finito questo breve momento, a parlare d'amore e di cose che questo paese dovrebbe ritrovare. Insinna, il caso Insinna. Allora, devo dire, beh, ma, ragazzi, ma non è stupenda questo lancio del traffico che ci hanno regalato sul rigore alla Juve? Beh, ma, secondo me è bellissimo, è fantastico. Tra poco facciamo il pronostico. Allora, dicevo, siamo con Umberto Brindani, direttore di Oggi, e con Silvia Brasca del TG della 7. Oh, signori, sono arrivato a pagina 17 di Libero, a un certo punto una intera pagina con questo titolo: i peni si possono allungare. E... esultanza fra le signore, così questo su due righe una pagina intera in 60 anni le misure del fallo, non si parla di calcio, sono diminuite di 2 centimetri e quindi si ricorre alla chirurgia plastica. Ecco, questo mi sembra c'è una signora, voi due. C'è una signora molto, cioè, molto tutta distinta, che adesso è già sdegnata di questo, di questo. Però che dobbiamo fare? In realtà devo dire, forse c'è una notizia oggi sui giornali. Signori, tra poco si andrà con 180 euro da Roma a New York. 180 euro, Brindani, questa forse interessa molti, che avvicina tutto, ovviamente, perché 180 euro è una cifra accessibile, sì, rispetto a un'altra botta micidiale per l'Italia. Appunto. Infatti. È arrivata Norwegian, alla questa compagnia low cost, a lanciare questa. Io però ho trovato una notizia molto divertente. Attenzione, eccola qua. Donald Trump che si addormenta mentre scrive il tweet. Sì, e scrive coffefe. E scrive coffefe. Coffefe. Allora, la scena di Donald Trump. You know what? Che si abbiocca e gli scappa scritto una cosa senza senso, la trovo la notizia della giornata. La notizia della giornata. What's the problem? You know what? You know China? vabbè, Donald Trump, coffefe, che poi il giorno dopo ha detto cercate di scoprire cosa vuol dire. Niente Trump, niente vuol dire. Secondo me, io ieri qua mi sono arzigogolato, secondo me è un acronimo. Coffefe. Ero arrivato su come on versus fucking e poi mi sono fermato. Mi manca... European, no, fucking. Ma? Brava, come on versus fucking European. Fucking due volte coffefe. European. Come on versus fucking European. Fucking European. You know what? You know Anglo-American? Yeah. Questo. Abbiamo risolto il mistero mondiale su cui tutti si interrogano. Signori, è il momento del pronostico. Silvia Frasca non ha. Allora, Mariona Dinolfi qui ha detto a questi microfoni: si vince largo e facile. Noi juventini, si vince largo e facile. Federico. Non di Grillo. No, si parla di Juve. Federico Novella ha detto: juventino anche lui, vinciamo con il cuore. Ragazzi, sti juventini. Silvia Frasca, pronostico di Juve Real Madrid. 1-0 gol di Cristiano Ronaldo. Mi piace sta ragazza. Umberto Brindani. Vince la Juve con un rigore contestato al 94esimo. Traffico. Un incubo. No. Un incubo. No, se succede. Avrà il pregio di toglierci le discussioni su Totti che ci hanno avvelenato da domenica. Esatto, ci hanno sfrangiato i cosiddetti. Ecco. Vabbè, signori, con questo, cioè, ti giuro che se finisce così, direttore, ti vengo a cercare. No, dai. Vai a trovarmi, dai. Un rigore al contestato al 94esimo non è possibile. Dai, speriamo di no. Non è largo e facile. Largo e facile, questa è l'ha detto Mariola Dinolfi. Ma ecco, se c'è una persona, giusto per tornare in una delle nostre rubriche che sono tra le più gettonate, una delle persone che è più guardinga sulla questione della legge elettorale, non è Alfano, non è Meloni, non è di qui, non è di là, è D'Alema. Noi dobbiamo trovare questa sindrome, allora lo psicologo di D'Alema torna a colpire questa mattina. Renzi dovrebbe essere imbarazzato di allearsi con Berlusconi e di sostenere il candidato del centrosinistra a Genova, diciamo. Io sono coerente con me stesso, sono per il centrosinistra a Genova e in Italia. Diciamo, qua per trovare una sindrome di D'Alema, insomma, è una cosa un po'. Cara Silvia, cara dottoressa Brasca, lo psicologo di la psicologa di D'Alema. Un disturbo narcisistico della personalità. Ah, beh, ci andiamo giù leggeri. Insomma. Così, perché, un disturbo narcisistico. Quello più largo su cui mettere tutto. In genere. Vabbè, un disturbo narcisistico della personalità, caro direttore Brindani, cosa? Di sicuro non è dittare, perché ha un'ossessione che è Renzi e che la porta avanti ormai da anni. Quindi possiamo dire che non è bipolare. Non è bipolare. Cioè, andiamo alle esclusioni. Non è bipolare. Questo almeno ci dice Brindani. Ma questa storia di cos'è la notizia che in questi giorni vi ha più rotto, Brindani? E a me, per esempio, questa storia di Insinna basta. Ma è come se la TV fosse vera. Cioè, stanno trattando la TV come se nella TV dicessero delle cose vere. Quando è notorio che, no, che in TV si dicono delle cose false, no? No, ma è notorio il fatto che tutti quelli che fanno TV, e forse anche quelli che fanno radio, perché io vorrei sentire l'amico Nespoli quando tu sei fuori onda. Sì. Ecco, tutti quelli che fanno TV e che fanno radio, soprattutto TV naturalmente, si sa benissimo che TV devi sorridere, e poi quando si spegne la lucetta rossa della telecamera può succedere sbrocchi. Tutti si incazzano come delle belve, insomma. Sì. Certo, lui è un po' esagerato, ma insomma fa parte del suo. No, cioè tutti pensano che Silvia Brasca sia così gentile nella vita. E invece no, dovreste frequentarla fuori dalla. No, adesso dico Silvia. No, ma è incredibile. No, dici bene. Incredibile come la gente pensi che, non so, quel tal conduttore, guarda com'è educato, sarà proprio una persona per bene. È finta la TV, svegliatevi, ve lo mettiamo all'inizio della sigla da 3 anni, insomma, che da Quinto Potere. Che l'unica verità è dentro noi stessi, mica noi vi diremo tutte le cazzate che volete farvi sentire. Questo è il concetto. O no, Silvia, la TV è finta, dillo anche tu. È così, è solo che ieri è stato molto bravo Nicoletti sulla tua radio, ha fatto un'analisi giusta, insomma, proprio hanno scoperto, chi se la prende con Insinna, che Dio è umano, e purtroppo è. Ne ho vista di scene come quelle, ne ho avuto contezza, è così, insomma, del resto